un scapolo di 40 anni, neanche mai più amorosa, ma che aveva pensato un giorno maritarsi anche a lui. È il tempo de piova come sti giorni qua, su pa' i monti una nuvoletta che veniva di mezzo al matto, e lui ha detto: mamma, se domani mattina fa piova, muoio, ciappo la mussa e vago al mulino. E così te l'ha fatto, leva su un'ora e 6:30, infornio la mussa, pianta sul sacco a righe con milio per andare al mulino, anche la maletta quella con un poco di riso, salta in cima una mussa piccinina, scantria magra, lui vede l'onda un uomo, salta in cima sta mussa e fuori, dato al mulino. Lascia star che la mussa l'era in pacadera, tempo muoio, strada brutta, la sbrisciava con tutto quel peso là in cima. Quando l'è arrivata prima incrusigliata, la mussa si è impaccata. E laccio, ferma, non si muoveva, neanche gli occhi non abbatteva. E lui le salta su, perché farla andare non era buono. Tirela, ciò davanti la mussa tirare le redene, e laccio, con la testa solo avanti, solo con la testa e il collo, e il corpo l'ha intatto, impiantato. Mola tutto, andato via del rio, col suo corpo grande, l'andate drio della mussa, e cari da Dio con tutta la forza del mondo, sotto del culo della mussa, a urtarla, no? E su, e su, e su, e la mussa la fea, sol cosita col culo. E niente di andare avanti. Ben l'alse che ha inrabbiato. E gli ha guardato in su con una gola e tirarga di un belle poche di strisce, ma gli ha pensato, bisogna che penso una maniera di far sta mussa andare avanti. Se gli ha sentato su per il baranco, e la pensare una maniera di far sta mussa andare avanti, tutto quel che voleva era andare al mulino. Ente quella, c'ho il serussa su per i brassi, e il guarda, tutto rosso. Sapevo cosa che l'era? La sua salvazione. Ortighe alte cosita morbide, c'ho col pellongo cosita. Ente quella, lui con le manone di cavarabuti, e gli ha stato due o tre sfrasate, cava su un po' che le ortighe, le è andato del trio della mussa, cari di Dio, pin pianin. La gaccia pada pa' qua a levantare su, buso sotto e buso sopra, ha dato quattro sfrega, e ha dato una sremenata così, e la scamolata ciò, e la mussa che smise a correre a galoppo, lui che aveva mai visto la mussa andare a galoppo, e se fuori col sacco si guardava, patatam, patatim, patatam, se fuori la mussa e lui là con le ortiche in mano, e che ha pensato, cosa mi adiante non mi aver fatto la mussa andare, fonti che mi adesso qua, poro macaco. Pensa subito, sbassa se sono le braghe e passa se ortiga anche lui. E a buon tempo, c'è un sbrusore che pare che il morisse. Comincia a correre, e il correa di piede il papa legua la bibiccio. E c'ho la mussa davanti a lui di Rio. E curi che di curi e ciappa che non c'è ciappa ed era di una cianta ciò. Testa e cul, testa e corpo, testa e col, testa e testa. Quando gli ho visto che non si fermi, ha detto, mussa ti aspetto sul mulino.